Giuro l'ultima mia sigaretta, guarda la sfengo pure già a metà. Come la volta che ti ho detto mentre eravamo a letto che ero stufo della tua normalità. Lo giuro smetto di fumare, lo giuro sulla mia famiglia ma è come quella volta che ho promesso, come le altre 100 di scordarti per l'eternità. Non sono buono a fare le promesse, ma non lo sono neanche con me stesso. E tantomeno a mantenerle quando l'unica richiesta che mi hai fatto è solo un po' di tempo. Sono un casino, l'ammetto, siamo un casino stupendo. Due rette parallele che non credono al destino scelto. Siamo vi, vi, siamo solo vi, vi, io e te. Quando respiriamo l'alcol della notte, quando farlo ovunque ci fa essere più vi, vi, solamente vi, vi con me. Lasciati scalare come un pianoforte. Voglio gli occhi dell'invidia solo su di noi. Non serve fare piano, non servono dei pretesti. Stringiamo il mondo a tal punto da farli perdere i sensi, da farci perdere pensi che troveremo una strada. Una macchina a fare spenti, una storia senza una trama. Due vite che non rallentano al bordo di una cascata. Ma ormai ho già perso tutto di te, di te. Scomparire in un lampo, come cenere pianto. Poi cercarsi di nuovo senza fine. Che siamo qua a metà. Provo a dirmi che tornerai da me. Tornerai da me, la ruota gira per tutti. Quante mi hanno preso a schiaffi per non dire a pugni. Quante volte mi hanno detto che sono troppo spallato. Quelle notti chiuso in studio a cantare quanto ho sbagliato. Ma la vita è mia, tu fammi un prezzo che ti vendo la malinconia. Che da scanno non ho niente mentre lei pretende che la porti fuori a cena. E non di fottere nascosti dagli sguardi in una via. Sono pazzo ma te, tu sei pazza di me. Due piume che non volano via. Siamo fragili insieme, due cristalli di neve. Questa voglia di bere che porta alla nostalgia. Siamo un casino, lo ammetto, siamo un casino stupendo. Due rette parallele che non credono al destino scelto. Siamo vi, vi, siamo solo vi, vi, io e te. Quando navighiamo senza avere rotte, quando farlo ovunque ci fa essere più vi, vi, solamente vi, vi con me. Lasciami provare ad essere più forte. Quelle volte che chiamavo e mi dicevo no. Non serve fare piano, non servono dei pretesti. Stringiamo il mondo a tal punto da farli perdere sensi, da farci perdere pensi che troveremo una strada. Una macchina a fare spenti, una storia senza una trama. Due vite che non rallentano al bordo di una cascata. Ma ormai che ho già perso tutto di me, di me. Scomparire in un lampo, come cenere pianto. Poi cercarsi di nuovo senza fine.